diciamo, tutta questa cosa per cui una bottiglia di vino biodinamico costa più che andare da Marchesi a pranzo o a cena, non ha del paradossale, Bressanini, secondo lei? Dal mio punto di vista è semplicemente marketing. Allora, tenga presente che diciamo, per uno scienziato la biodinamica è astrologia applicata all'agricoltura. Bravo, bravo! Un applauso da parte dell'umile Giannini. Non so se sta bene le varie pratiche, praticamente è una specie di agricoltura biologica che ha le sue le sue regole, la coltivazione col letame e così via, con in più aggiunte delle pratiche che dal punto di vista scientifico non hanno nessuna sono druidiche, sono dei sacerdoti druidici, questa è la mia... Ad esempio, chi coltiva uve biodinamiche deve prendere dei fiori di Achillea, su questo magari gli ascoltatori non lo sanno, dei fiori di Achillea, metterli nell'intestino di un cervo e interrare questo intestino per un po' di mesi e poi prendere questo preparato che è rimasto e spargerlo sull'uva. Perché il cervo? Perché secondo Steiner, che è l'inventore della biodinamica, il cervo con le sue corna riusciva a stabilire un contatto tra le forze astrali e la terra. E cose di questo ce ne sono altre. L'ho detto i druidi, ma oddio, io anche rispetto verso i filoni della filosofia ctonia, per così dire, fanno parte dell'ancestrale retaggio premoderno che ha a che vedere con i primi tipi di cultura della terra. Però detto tutto questo,